Se Rojava è troppo lontano, il mare troppo costoso e la città troppo afosa, quest'estate la capitanata ha bisogno di te. Camminare, correre, non rendersi in resto sederve, a prendere come spocca. Tra metà luglio e metà settembre la rete Campagna in Lotta organizza il suo quarto intervento estivo a sostegno dell'auto-organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti in provincia di Foggia. Per contrastare lo sfruttamento del lavoro in campagna, la discriminazione istituzionale, l'isolamento e la violenza di genere sulle lavoratrici. Se sei interessata, scrivi a campagnainlotta@gmail.com o chiama il numero 366-12-99942. Per maggiori informazioni su Campagna in Lotta e sui contesti in cui operiamo, potete visitare il sito www.campagnainlotta.org. Nigeria, Bolivia.